Abbiamo un ospite speciale. We have a special guest. Così mi agito di più. Can get even more nervous. È come fare un esame all'università, ragazzi. I'm taking a university exam. Ok. Anche perché l'argomento è abbastanza impegnativo, quindi. So, the argument of today is a little bit complicated. Allora, l'argomento di questa sera è l'originazione dipendente. So, we're going to talk about dependent origination. Quindi chiedo scusa già da ora se non sarà un discorso molto, come dire, no, lineare sì, probabilmente sarà lineare, però magari se mancherò in qualche cosa. So, I ask to please pardon me if something is missing. Here and there, I think the talk will be quite linear, but perhaps I miss something here and there. Se pensate che persino Ananda, sapete chi è Ananda? Ananda era l'attendente del Buddha, che era suo cugino anche, e praticamente ha vissuto con il Buddha per tutto il periodo in cui è vissuto il Buddha, quindi lo ha seguito, ha memorizzato tutti i suoi discorsi, eccetera. Quando gli ha detto al Buddha, ah, ho capito la legge dell'originazione dipendente, Ananda il Buddha l'ha redarguito e gli ha detto, no Ananda, attento Ananda, perché questo insegnamento dell'originazione dipendente è molto profondo. So, even Ananda, who was the Buddha's attendant and cousin, and lived beside the Buddha for 45 years, and had memorized all the Buddha's discourses, then one day said to the Buddha, oh, I think I finally understood about dependent origination. And the Buddha said, oh no, Ananda, it's deep. It's complicated. Yeah. Quindi se neanche il venerabile Ananda è riuscito, secondo il Buddha, a penetrare questo insegnamento, insomma, per noi è un po' più difficilino, ecco. So even so, if Ananda too was not really able to penetrate to the depths of the teaching, then we can understand that it's a little bit complicated for us. Nella notte in cui il Buddha si è illuminato e che ha raggiunto l'illuminazione, ha penetrato la legge dell'originazione dipendente in questo modo. Nella prima veglia della notte ha visto il sorgere e il passare e il rinascere degli esseri. So, on the night that the Buddha was illuminated, he saw the He penetrated into the understanding of the dependent origination in this way. In the first watch of the night, he saw the arising and passing away of beings. Would you stop? Sì. Yes. Okay. E lui ha espresso il concetto in questo modo. And he expressed the concept in this way. Ho ricordato le mie vite precedenti, una, due nascite, 10, 100, 1000 nascite, centinaia di migliaia di nascite. I remembered my past lives, 1, 2, 10, 100, hundreds of thousands of past lives. E mille eoni di espansione e contrazioni degli universi. And I saw millions of eons of expansion and contraction of the universe. E mi sono ricordato in quali famiglie ho vissuto. And I remembered in what family I lived. E venendo meno a questa vita, sono rinato in quest'altra vita. And, e in quest'altro luogo. And ending one life, I saw that I was born again into another life, in another place. Ho ricordato le mie vite precedenti in tutti i dettagli. I remembered my past lives in all their detail. E questa è stata la vera prima conoscenza che ho ottenuto nella prima veglia della notte. And this was the first real understanding that I got in the first watch of the night. Nella seconda veglia della notte ho visto gli esseri sparire e comparire. In the second watch of the night I saw beings arising and passing away. Superiori o inferiori. Superior beings or inferior beings. belli, brutti, fortunati, sfortunati. Beautiful, ugly, fortunate, unfortunate. E ho compreso in che modo gli esseri rinascono e continuano a rinascere in base alle loro azioni precedenti. And I understood how beings are reborn and continue to be reborn on the basis of their past actions. Mentre nella terza veglia della notte ho compreso le quattro nobili verità. In the third watch of the night I understood the four noble truths. E quindi ha compreso anche la legge dell'originazione dipendente. And also therefore the law of dependent origination. Questa legge dell'originazione dipendente sottostà allo scomparire e all'apparire degli esseri. So it is the underlying law that governs the arising and passing away of beings. Cioè il Buddha ha visto e compreso quali sono le leggi che governano il rinascere degli esseri. So the Buddha saw and understood the underlying laws that govern the rebirths of beings. E quali sono le cause che li vincolano al samsara? And what are the reasons or the causes for which they remain trapped in samsara? E il Buddha ha descritto questa scoperta come una rivelazione. And the Buddha explained this discovery as a revelation. Esprimendosi in questo modo. And he expressed it in this way. Chi vede l'originazione dipendente vede il Dhamma. Who sees the dependent origination sees the Dhamma. Chi vede il Dhamma vede l'originazione dipendente. Who sees the Dhamma sees dependent origination. Nonostante l'importanza di questo insegnamento, all'inizio, subito dopo l'illuminazione, il Buddha ebbe qualche esitazione se insegnarlo oppure no. So, notwithstanding the enormity of the discovery following his illumination, the Buddha remained in some doubt about whether to undertake the teaching or not. Perché aveva visto che gli esseri avevano gli occhi coperti di polvere. Because he saw that, as he said, the beings had dust in their eyes. Ma alla fine decise, nella sua immensa compassione, di divulgare il Dhamma. But in the end he decided, out of a sense of compassion, to divulge the Dhamma. E infatti durante tutta la sua vita ha dato diversi insegnamenti che non sono tutti uguali. Magari dello stesso insegnamento ha dato delle versioni a volte più facili, più semplici, a volte un pochino più difficili. And you can see also in the way that he gave different teachings to different people throughout his teaching life, sometimes simpler, sometimes more difficult, depending on the context. Dipendeva dalle persone che aveva davanti. And depending on the people he was teaching to. Per esempio, la donna che arrivava con il figlio morto in braccio e che chiedeva al Buddha di far rivivere suo figlio. So there's this story of the woman, I don't remember her name, who came to the Buddha weeping with her dead infant in her arms, asking him to resuscitate the child. Anche verso questa donna ha dato un insegnamento molto profondo. Nonostante fosse una donna del popolo, diciamo. And so, even if she was a common woman, he gave her a profound instruction. Quindi dava gli stessi insegnamenti in modi diversi, in base appunto a quanta polvere avevano negli occhi le persone. And so he would give the same teaching in different ways, depending on how much dust there was in the eye of the person who was receiving the teaching. Allora, il termine Pali, ritornando al discorso dell'originazione dipendente, è Paticca Samuppada. So the Pali term for dependent origination is the Paticca Samuppada. È composta da tre parti. And it's composed of three parts. Paticca, significa sorto o essere sorto. So Patitya means risen or to arise. Sam, che significa insieme. Sam means together. E Pattaya significa condizionamento. And Pattaya means conditioning. Quindi se mettiamo insieme questi tre termini viene coproduzione dipendente. And so if you put them together it becomes like a co-arising, a co-dependent arising. Co-originazione dipendente significa che tutte le formazioni mentali e fisiche sorgono solo sulla base di condizioni. So it means that all formations, physical or mental, arise only on the basis of underlying causes. Nessuna cosa sorge da sé, si può mantenere senza delle cause e delle condizioni che la sostengono. So nothing is self-arising and nothing can remain if there aren't underlying causes or conditions that support it. E che sostengono la sua continuazione. And that keep it in existence. Qualunque cosa esista sorge per determinate condizioni. So everything that arises arises out of determinate conditions. Dura per un certo periodo di tempo. It lasts for a while. Perché queste condizioni continuino ad essere. Because the conditions, the underlying conditions continue to support it. E cessano nel momento in cui cessano queste condizioni. And then it ceases with the ceasing of the conditions. Quindi questa legge ci illustra che niente succede per caso. And so the law explains that nothing happens by accident. E nemmeno per via di forze esterne, di una divinità o di un sé che controlla che influenza dall'esterno lo svolgimento dei fenomeni. So phenomena are not self-arising, but they are also not arising because of some external agent like a divinity or a god. Ed è molto importante riuscire a capire la realtà del non sé anatta. So very important here to try to grasp the concept of anatta, non-self. Anatta ci dice innanzitutto che come ciò che consideriamo una persona. So anatta says that what we take to be a person. In realtà è formata dai cinque aggregati. Is in reality just a composite of the five aggregates. E che questi cinque aggregati sono la materia, rupa, la materia, vedana, le sensazioni, poi abbiamo le percezioni, sanya, e la coscienza, vignana. E la sankhara. Quattro. Le formazioni. Sankhara. Penso che Bante domani sera faccia il discorso, se volete. Yeah, so quindi non vi dico nient'altro. Okay, so Bante is going to actually talk about the five aggregates tomorrow, but they are bodily formations, rupa, they are mental formations, sankhara, they are the consciousness, vijnana, perception, sanya, and feeling tone, pleasant, unpleasant, neutral, vedana. Vedana. Okay. Dopodiché viene dimostrato che in nessuno di questi cinque aggregati può essere ritrovato qualcosa che possiamo considerare come un sé, come un'entità. And the Buddha goes on to show that in none of these five aggregates can you find something that could be called a self. Come un'entità sostanziale permanente. As a substantial permanent entity. Quindi i cinque aggregati sono impermanenti. So the five aggregates are impermanent. Questo significa che le sensazioni fisiche e le percezioni fisiche non durano. So it means the physical sensations and perceptions don't last. E quindi non possiamo considerare, facciamo un esempio, le percezioni, così come nessun altro dei cinque aggregati, come un sé. So none of the for example as perceptions, none of the five aggregates can be taken as an abiding self. E vediamo che questi vengono meno e cessano e sono impermanenti e quindi non possono essere un sé. Because to the extent that they arise and pass away, there is no permanent abiding presence there. Si può spiegare il Paticca Samuppada attraverso un esempio, non mi viene la parola, un esempio. So, one way to see what the Paticca Samuppada is all about is through an example. L'immagine è quella di un orologio. So, taking the idea of a watch. E gli orologi quelli meccanici con dentro tutti gli ingranaggi. So like the mechanical watches with all the gears, yeah, and all the wheels that are fitted together, the wheels that are fitted together. Se noi smontiamo questo orologio, vediamo dentro tanti pezzi, se li togliamo e li distribuiamo su un tavolo, non possiamo dire che un pezzo è l'orologio. So if we take apart the watch and put out all the pieces, all the various wheels and dials, then we can't say that the watch is in any one of those wheels and dials. Se invece vogliamo comprendere il funzionamento dell'orologio, dobbiamo guardare come funziona. So, to understand what a watch is, we have to see how it functions. Come tutte le parti dell'orologio sono un insieme. E allora solo così possiamo vedere in che modo un ingranaggio fa sì che si muova. So it's only as a togetherness of all these various interlocking wheels that we can see how this watch functions. Quindi cioè tutti gli ingranaggi sono collegati uno all'altro e insieme fa sì che l'orologio funzioni. So all these tooted wheels are linked one to the other, and it is only in their being linked together that the watch can function as a watch. Facciamo un esempio. Nella nostra pratica meditativa comprendiamo che i pensieri sorgono da sé e non perché c'è qualcosa o un'entità che li fa saltare fuori, li fa sorgere. So in our meditation practice we can begin to see that the thoughts arise of their own, there is no entity behind them causing them to arise. Perché ci sono determinate condizioni che fanno sì che quel pensiero sorga. So there are some underlying conditions that make it so that the thoughts arise. Per esempio, se il mio vicino di meditazione, di seduto accanto a me, incomincia a muoversi, fa rumore, io noto questo rumore e immediatamente sorge il pensiero di irritazione nei confronti della persona. So it may be that the person next to you in the meditation room is moving around or fidgeting and a thought of irritation arises in the mind. E in assenza del suono non sorge nessun pensiero. And if there were not to have been those sets of sounds, then there would not have been this thought. E il Paticca Samuppada spiega in che modo la vita continua attraverso innumerevoli esistenze. Il Paticca Samuppada explains in this way how lives continue on the basis of conditions. E tutto questo senza implicare un'idea di un sé che è responsabile di questo continuare. And so all of this without implicating a single self that continues. Se avete mai visto la ruota del divenire, c'è anche di sopra in sala da pranzo, vero? Have you ever seen the wheel in the teeth of Mara, the wheel of dependent origination? It's also in the meditation, in the dining hall upstairs. Allora, la ruota è divisa in diversi cerchi. Nel centro abbiamo tre animali. So the wheel is divided into different circles. L'immagine di questi tre animali. So in the center we have this image of these three animals. Un maiale, un serpente e un gallo. A pig, a serpent and a rooster. E che sono la rappresentazione delle tre radici non salutari. And they represent the three unwholesome roots of greed. Avidità, odio e illusione. Greed, hatred and delusion. E ognuno di questi animali tiene la coda di quello davanti. And each of these animals holds the tail of the one in front of them. E quindi si crea un cerchio senza fine. So there's this unending circle, this circle without end. E da qui si sviluppano una serie di cerchi e questo ci illustra come proprio l'avidità, l'odio e l'illusione che generano questo ciclo infinito di rinascite. And then around this circle there are various other circles, and this is to show that it is this circle of the delusion, anger and greed that makes the whole thing proliferate. Nel cerchio successivo sono illustrati sei reami in cui gli esseri rinascono. So in the second circle there are the six realms in which beings are reborn. Il regno infernale degli animali, the hell realms, the animal realm, degli esseri affamati, degli esseri umani, the hungry ghosts, the human realm, dei semideva e dei deva, the semi-divinities and the divinities. E poi c'è l'altro cerchio dove sono illustrati i 12 anelli dell'originazione dipendente. The 12 external and the external circle and the third circle has the 12 links, the specific 12 links of the Paticca Samuppada. E questi lavorano insieme come causa del fatto che gli esseri rinascono. And these work towards the rebirthing of beings. E creano una catena per cui ogni anello è la condizione per il successivo. And they create a chain whereby every link in the chain is the necessary condition for the arising of the next link in the chain. Oppure ogni anello dipende da quello precedente, proprio come gli ingranaggi dell'orologio. So every successive link is dependent for its origination on the preceding link. Quindi finché questa rete di cause e condizioni continuano, continua anche il ciclo di rinascite. So as these links continue, so also the cycle of births and rebirths continues. E quindi continua la sofferenza e questa catena di cause e condizioni è chiamata appunto la legge dell'originazione dipendente. And so this law of dependent origination also continues, and with it the entire circle of suffering. Il primo anello è quello dell'ignoranza. So, e l'ultimo, il risultante, sono la vecchiaia, la malattia, la morte. So to look at the specific links of the Paticca Samuppada, the first link is ignorance, the head of the snake. And then the other, the last link is aging, sickness and death. Okay. E se avete il foglietto davanti, quello della puja del mattino? So if you have the morning puja in front of you. Ce l'avete sotto mano? Quindi recita in questo modo. Dall'ignoranza come condizione derivano le predisposizioni karmiche. So here at the bottom of the second page. Sì. Yeah, the bottom of the second page. Ce l'avete tutti? We have the Paticca è quello che recitiamo la mattina. Yeah, this is the Avijja, Paccaya, Sankara, Sankara, Paccaya, Vijnanam. Ok? Sì, dopo lo spiego in modo più dettagliato. So she's just going to outline it and then she'll explain in more detail. Però incominciamo a leggerlo in italiano, così abbiamo un po' l'idea di che cosa è questa catena. Okay. So just going to outline the entire chain and then explain the details. Quindi dall'ignoranza come condizione derivano le predisposizioni karmiche. So based on ignorance, karmic predispositions arise. Dalle predisposizioni karmiche come condizione deriva la coscienza. On the basis of these karmic dispositions, consciousness arises. Dalla coscienza come condizione derivano nome e forma. On the basis of consciousness, mind and matter arise. Da nome e forma come condizione derivano i sei sensi. On the basis of the arising of mind and matter, the six sense bases arise. Dai sei sensi come condizione deriva il contatto. So, by the arising of the six sense bases, contact arises. Dal contatto come condizione derivano le sensazioni. Sensazioni, come spiegava prima Gautam, diviso non sensazioni fisiche, ma sensazioni come natura, come tonalità affettiva, grazie. So, quindi sensazioni se piacevole, spiacevole o neutra. So on the basis of contact, feelings arise. Now feelings here are not emotions, huh? But they are the affective quality of something. It's being pleasant or unpleasant or neutral. Feeling tones arise. Dalle sensazioni come condizione deriva la brahma. On the basis of the feeling tones arises craving arises. Dalla brahma come condizione deriva l'attaccamento. On the basis of craving, attachment or grasping arises. Dall'attaccamento come condizione deriva il divenire. On the basis of the grasping, becoming arises. Dal divenire come condizione deriva la nascita. On the basis of becoming, birth arises. Dalla nascita come condizione si producono l'invecchiamento, la morte, il dolore, il lamento, l'angoscia e la disperazione. And on the basis of birth then we have aging, sickness, death, suffering, desperation, etc. Tale è l'origine di questa intera massa di dolore e sofferenza. And the entire mass of this suffering. All'inizio però del sutta, come introduzione, che è conosciuto come se c'è questo c'è quello, l'introduzione del sutta dice: quando c'è questo c'è quello. So there is a sutta, the this and that sutta. So the sutta says, when there is this, there is that. Dal sorgere di questo deriva il sorgere di quello. On the basis of the arising of this, that arises. Quando non c'è questo, non c'è quello. When this is not there, that is not there. Quindi dalla cessazione di questo deriva la cessazione di quello. With the ceasing of this, that ceases. E poi parte, dice in altre parole, eccetera, eccetera, quello che abbiamo letto prima. Che cosa vuol dire? Cioè, è un po' come una formula matematica, no? Sta A, sta B, come B sta C, no? Allora, se c'è questo, sorge quello. Ok? So, if there is this, that arises. Se questo non sorge, non sorge quello. So, if this doesn't arise, that doesn't arise. Allora, nella prima frase, il questo, la parola questo, spiega che il primo elemento è la condizione per il sorgere del secondo. So, what this says is that the first, this, is the condition for the arising of that. Ma tra questi due anelli, cioè tra questi due fenomeni, ci può essere un intervallo di tempo indefinito, variabile. But there's no specific time that is stipulated here. There can be the time between the arising of this and the arising of that can be more or less long or short. Per esempio, se noi guardiamo la condizione dalla nascita alla morte. So, because there is birth, there is death. But between birth and death, there may be a huge range of possibilities. Se c'è la nascita, necessariamente ci sarà la morte. So, whenever there is birth, necessarily there will be death. Quindi se c'è questo, c'è quello. So, if there is this, there is that. Invece la seconda frase ci illustra che due fattori sorgono contemporaneamente, quindi la seconda frase sarebbe: dal sorgere di questo deriva il sorgere di quello. Well, the second says something else. It says, with the arising of this, that arises. And that says it's like a co-arising, the arising, the simultaneous arising of two things. This arises and that arises together. Facciamo l'esempio di Vedana. Vedana sorge contemporaneamente al contatto. So, for example, with contact, feeling tone arises simultaneously. Oppure, quando c'è un suono, la coscienza dell'udire avviene contemporaneamente. So, that a sound be perceptible, sound consciousness arises together with the sound. Poi nell'altra parte, quando dice in assenza di questo, quello non viene in essere, non sorge, questo spiega che il primo fattore è una condizione necessaria per il sorgere del secondo. Scusami, dimmi ancora. Allora, in assenza di questo, quello non sorge. So, questa è la terza frase. L'ultima frase, sì. So, the third sentence is, in the absence of this, that cannot arise, saying that this is a necessary condition for the arising of that. E questo spiega che il primo fattore è una condizione necessaria, per il sorgere del secondo. Ok, appena detto. Ok, scusa. Facciamo un esempio. Se non c'è un suono, non sorge la coscienza dell'udire. So, if there is no sound, no sound consciousness arises. Se non c'è illusione o ignoranza, non c'è né avidità né avversione. So if there is no delusion, there is neither greed nor aversion. E quindi è necessario, per un altro esempio, che ci sia la base sensoriale dell'occhio perché noi possiamo vedere. Or another example, che possa essere visto qualcosa. There must be the sense base of the eye in order for seeing to take place. L'ultima, quella era la penultima, scusa. La quarta frase invece si riferisce al venire meno simultaneo di due fattori. And so the fourth sentence, puoi ripetere? La quarta frase si riferisce al venire meno simultaneo dei due fattori. Cosa dice la quarta frase? Ah, scusami. La quarta frase dice: dalla cessazione di questo deriva la cessazione di quello. So, with the fourth sentence says, with the ceasing of this, there is the ceasing of that. And so it means there's the simultaneous ceasing of the two. Quindi, con il venire meno di un dolore, ecco che viene meno anche la resistenza al dolore. So, pain disappears and the aversion towards the pain disappears with it. O con la fine di un'intenzione viene meno anche l'azione che si intende fare. So with the dissolution of an intention, the action that would have followed the intention also dissolves. E quando cessa la doesn't come about. O quando cessa la brama, cessa anche l'afferrare. Quando cessa la brama, cessa anche l'afferrare. Oh yes, okay, sorry. Yes. So when desire ceases, the attachment or the grasping also ceases. Ok, adesso vediamo più in dettaglio i vari anelli. So, let's look now at the 12 links of the Paticcasamuppada in some detail. Ok, allora avete sotto mano il foglietto? So, good così to possiamo have the, guardarlo insieme. Good to have the sheet in front of you, huh? So we can just look together. Così potete happening. Segnarvi le varie cose. Quindi, abbiamo visto che inizia con avidya paccaya, avidya. Avidya è l'ignoranza. So we begin with avidya paccaya sankhara, no? So avidya is ignorance. Ignoranza, sì. Ignoranza qui si intende il non vedere le cose nei termini delle quattro nobili verità. So ignorance here means not seeing things in the light of the four noble truths. Quindi, li conoscete le quattro nobili verità? So, do you, Luisa is asking if you remember the four noble truths. Può darsi, Diciamo che sono molto importanti le quattro nobili verità, ok? Così a grandi linee. La prima nobile verità è che c'è la sofferenza o l'insoddisfazione. Nella seconda nobile verità c'è l'origine della sofferenza e dell'insoddisfazione. Nella terza nobile verità c'è la cessazione e nella quarta nobile verità c'è il sentiero che porta alla sua cessazione. So the first noble truth is the truth of suffering. There is suffering. The second noble truth is the origin of suffering. The third noble truth is the cessation of suffering. And the fourth noble truth is the way leading to the cessation of suffering. Quindi non è ignoranza dal punto di vista intellettuale. Okay. So quindi bisogna capire bene questo termine. Non è ignoranza perché non sei laureato o perché non hai fatto gli studi superiori. Qui è proprio l'ignoranza rispetto alle quattro nobili verità e rispetto al fatto che non si vede la realtà così com'è. Quindi questa è la partenza. The origin of everything is this ignorance, but it's important to be clear that this ignorance is not about a lack of learning. It's not an intellectual ignorance, but it's an ignorance about the way things really are, about the real nature of things. Avidya ci fa scambiare ciò che è falso e illusorio come se fosse vero e reale. So Avidya makes it so that we take what is illusory to be real. Il venerabile Masi Sayadaw spiega questo in questo modo, fa questo esempio. Immaginiamo un cieco, ok, a cui gli si regala un vestito. So the Masi Sayadaw gives this example. He says, imagine a blind person to whom you give a gift of clothes. Un vestito brutto, vecchio, non. So, but the clothes are not new, they're used, they're worn out. Ma la persona, siccome è cieca, non può vedere com'è il vestito e lo considera come se fosse bello, no? E quindi ne va orgoglioso. And so the blind person, not being able to see the condition of the clothes, wears them proudly, as though they were new. Ma nel momento in cui il cieco riacquista la vista, si accorge che il vestito è uno straccio. So if the blind person were then to regain their sight, they would see immediately that these clothes are rags. Ed è così che siamo noi, no? La nostra vigia è quello, che noi non vediamo che indossiamo un vestito vecchio, stracciato, no? Perché siamo ciechi e lo consideriamo come una cosa bella. So this is the nature of our ignorance, right? We take what is not beautiful to be beautiful. E quindi il ritornare a vedere lo possiamo ottenere solo attraverso la pratica, attraverso la meditazione. So the coming to see, the return to sight for us is possible through the practice of meditation. Only through the practice of meditation. Quindi questo è il primo anello, Avidya. Quindi the first link in the chain, the ignorance. Avidya Pachaya Sankara è il secondo. Sankara sono le formazioni. So Sankara here refers to formations. So ignorance makes it so that formations arise. Sono il processo di formazione intenzionale di stati del corpo e della mente. So they are the formations, the intentional formations of body and mind. Formations based on intentions of body and mind. Questi processi sono di tre tipi. So there's three types of processes. Sono formazioni del corpo. So there's bodily formations. Formazioni verbali. There's verbal formations. E formazioni mentali. And there's mental formations. Nella formazione del corpo, per esempio, l'inspirazione e l'espirazione. So bodily formations like the rising falling of the abdomen. Formazioni verbali, per esempio, sono i pensieri giusti, i giudizi, direi, corretti, diretti. pensieri mentali verbali, sì. Verbali sono pensieri e giudizi. So verbal formations like thoughts and judgments. Mentre le formazioni mentali sono le sensazioni, quindi piacevole, spiacevole, neutro. So, mental formations like the feeling tone, vedana. E le percezioni. Or perceptions. O quindi andiamo avanti, quindi da Sankara, Paccaya, Avijja Paccaya Sankara, Sankara Paccaya Vijñanam. So, Vijñana. So moving on to the next link, it's the these formations give rise to consciousness. Coscienza, per mezzo dei sei sensi, occhio, orecchio, naso, lingua, corpo, mente. No, scusami, dici ancora. Ok. Mm. Coscienza per mezzo dei sei sensi. Per mezzo? Dei sei sensi. Non sei sensi, ok, ma non ho capito per mezzo. By means of the... Ok, so, consciousness by means of the six sense basis. Eh? E la coscienza è condizionata da almeno tre proprietà. Attenzione, contatto, evoluzione. Attenzione, contatto, evoluzione. So the consciousness is conditioned by these three elements: attention, contact, and volition. Certo. Dalla coscienza andiamo a nome e forma, quindi Vijñana Paccaya Nama Rupam. Nome e forma, Nama Rupa, sono i fenomeni mentali e fisici. So, by Nama Rupa here, which is translated as name and form, really means body and mind. So, consciousness gives rise to formations of body and mind. I fenomeni mentali comprendono le sensazioni, le percezioni, la volizione, le intenzioni, contatto e attenzione. So, several types of mental formations, like as we said before, the perceptions, the feeling tone, intentions, contact, attention. Attenzione, sì. Mm. Poi invece i fenomeni fisici comprendono i quattro grandi elementi. And by physical formations we mean the four great elements. Mm. Che sono la terra, che corrisponde alla solidità. So the earth element corresponding to solidity. L'acqua che corrisponde alla fluidità. So the water element corresponding to fluidity. L'aria che corrisponde all'energia e al movimento. So the air element corresponding to energy and movement. E il fuoco che corrisponde al calore. And the fourth element is fire element which corresponds to temperature. Ok. Dopo Namarupa, Namarupa Paccaya Salayatanam. So coming to the next link, it's Salayatana, sono le sei basi dei sensi. So body mind giving rise to the six sense basis. Occhio, orecchio, naso, lingua, corpo so e mente. So these are the five traditional senses and the sixth sense is the mind. Queste sono le porte attraverso le quali i processi di coscienza si verificano. So these are the Te lo the doors through which the doors of perception, the doors through which consciousness expresses itself. Da Salayatana passiamo a Passa. So from quindi the, siamo arrivati Salayatana Paccaya Passo. On the basis of the six sense basis, contact arises. C'è il contatto. Mm-hmm. Il contatto presso le sei basi dei sensi. So, il contatto. Scusa. No, vai avanti. Il contatto avviene quando un organo di senso incontra un oggetto dei sensi. So contact comes about when a sense organ encounters an object. Per esempio, l'occhio incontra una forma. So the eye encounters a form. E quindi condiziona un atto conscio presso quell'organo. And so condiziona? Sì, condiziona. Yes, okay. Un atto. Nel senso che sorge un oggetto con la vista, tu lo vedi, in quel momento sorge la coscienza visiva. So this contact between the eye and the eye object makes so that the eye consciousness arises. Quindi l'incontro dei tre, l'organo, l'oggetto e l'atto conscio, costituisce un contatto. And it is this meeting of these three, the organ, the sense organ, the sense object, and the sense consciousness that creates the contact. Okay. Quindi da passa, dal contatto passiamo alla sensazione. So vedana. From contact we move to feeling tone. E vedana si basa sul contatto presso i sei organi dei sensi. Sorry? Vedana si basa sul contatto attraverso i sei organi dei sensi. The vedana arises on the basis of the contact through the six sense doors. Quindi vedana, abbiamo detto che ha tre, chiamiamole qualità, ok? Che sono piacevole, spiacevole e neutro. So the vedana are of three types, they're either pleasant or unpleasant or neutral. In base all'oggetto che incontra. And the vedana arises on the basis of the object that is contacted. Se io vedo un fiore, ok? Sento l'odore, la sensazione sarà piacevole. So if I see a flower or smell the odor, then pleasant sensations arise with that contact. E se per esempio invece ho una maglietta sporca che ha odore di sudore, quello sarà, avrò una sensazione spiacevole. So, okay, if there's a smell of old t-shirt or sweat, then maybe that generates unpleasant feelings. Invece la sensazione neutra non è né piacevole né spiacevole, quindi non c'è le sensazioni sia piacevole che spiacevole. So the neutral are also sometimes explained as neither pleasant nor unpleasant, so not having any determinate quality. Facciamo un esempio che Bhante ha stimolato parecchio in questo ritiro, nel ritiro, la coscienza gustativa, so, il gusto. So something that Bhante has been stressing here is the process of eating, so we can just take that as an example. La coscienza gustativa sorge dal contatto tra la lingua e il cibo che noi mettiamo in bocca. So the taste consciousness arises at the point of contact between the tongue and the food. L'unione della lingua, del sapore e la coscienza è il contatto, quello che unisce è il contatto. So it's this meeting of these three things, the sense organ, which is the tongue, the food, which is the object, and the taste consciousness that generates the contact. È da qui che nasce la sensazione. And when there is contact, feeling tone arises. Questo anello dell'originazione dipendente è molto importante. So this link here is very important. Perché le sensazioni portano sofferenza nel ciclo dell'esistenza. Because the feeling tone is what then generates the whole cycle of suffering. Sia anche il Buddha o anche gli Arahant il Buddha aveva, ma anche gli Arahant hanno delle sensazioni. So the vedana arises for everybody. It just belongs to the moment of contact. So even the Arahant or the Buddha himself experienced feeling tone. Perché c'è il contatto. Because it arises together with contact. Lo stesso provano dolore. Lo stesso per il dolore. So also the unpleasant feelings going along with pain, for example. Il dolore che sorge dall'afflizione fisica. Per esempio, il Buddha soffriva moltissimo di mal di schiena. So it's said that the Buddha suffered terribly from backache. So physical, but maybe suffered is not the right word. La differenza. Had severe backache. Yeah. So. È vero, Bhante? Vero che il Buddha soffriva di mal di schiena? Però il punto importante è che non soffrono mentalmente. So there is physical suffering, but in the case of the Buddha no mental suffering. E neanche provano piacere. And so there is also no greed. E quindi sono liberi dal desiderio e dall'attaccamento. So they're free of desire and attachment. Solo con l'estinzione del desiderio cessano i suoi effetti, si ha l'estinzione della sofferenza, quindi. So it's only with the ceasing of desire that the suffering ceases. Molto famoso, per esempio, il sutta delle due frecce. So it's the famous sutta of the two arrows. Penso che lo conosciate, no? Sì, quello delle due frecce. Sostanzialmente nel sutta si dice che il dolore fisico è inevitabile. So, ok. The sutta essentially says that physical suffering is inevitable. E la persona che non è addestrata verrà colpita da una seconda freccia. But the untrained mind, untrained person, will then be struck by a second arrow. E quindi avrà avversione verso quel dolore, sorgerà della rabbia, si lamenterà, si batterà il petto, eccetera, eccetera. A sequence of reactions arise, right? Eh? Aversion, lamentation, beating of the breast. Mentre invece la persona addestrata, se verrà colpita da una freccia, quindi dal dolore fisico, non avrà reazioni del genere, ma rimarrà equanime rispetto al dolore. So, but a well-trained person, then a person whose mind has been well-trained, suffers the arrow of the physical pain, but there is no mental reaction because the mind remains equanimous to the experience. E quindi non verrà colpito dalla seconda freccia. So there is no second arrow. E di conseguenza non ci sarà avversione, non ci sarà rabbia, non ci sarà lamento, disperazione, eccetera, eccetera. So none of the reactions then follow. Ma questo lo vediamo benissimo durante la meditazione, no? Quando sorge un dolore, per esempio, male al ginocchio, male alla schiena, che cos'è che facciamo? O evitiamo, cerchiamo di non vederlo, e se lo vediamo, la reazione mentale qual è? Non lo vogliamo, no? Lo vogliamo allontanare, quindi sorgerà sicuramente l'avversione, oppure della rabbia. So we see this very clearly now in meditation practice. Pain arises and either we try to escape from it, or then if we acknowledge it, then also there's the sense of wanting to be rid of it. So there's the aversion is there with it. Quindi passiamo all'altro anello che è Tana. And so Tana, here, la Brahma. The link, the next link. So feeling tone generates desire, craving. Tana. Tana. Tana, sì. No, volevo dire una cosa rispetto alle sensazioni, no? Ah no, va bene, no, vado avanti. Tana è la Brahma. So, la Brahma degli oggetti. Tana is craving. Gli oggetti delle sei basi dei sensi. So craving for the objects that arise at the six sense doors. Brahma, desiderio, e poi qui il range va dal più piccolo desiderio alla Brahma, proprio l'aggrapparsi, proprio così. So, range of desiring here. E questa Brahma può concentrarsi su ognuno dei sei, delle sei basi dei sensi, assumere una delle tre forme. So this desire can grab on to any of the six sense bases and takes these three forms. La prima è Brahma di gratificazione sensoriale. So the first is the desire for sense gratification. La seconda è la Brahma di esistere. And the second is the desire for existence. E la terza è la Brahma di non esistere. And the third is the desire for non-existence. Allora, questi due punti, abbiamo visto, Vedana e Tana, sono molto importanti e diciamo che forse è la via di fuga da questo continuo ciclo. And so it's here between the link between Vedana and Tana that there may be a way out of this cycle. Perché noi siamo proprio imbevuti nel desiderio, in Tana. So being drunk with desire. Tutto, yeah? Tutto si basa su Tana. So drives our lives. Hmm? Mm. Soprattutto nei giorni nostri, no? Tana è ovunque. So especially in our time, the mechanism of desiring is everywhere. Mm. Mm. Mi viene da ridere perché non so se avete visto adesso su internet, no? Ci sono tutti questi siti dove vendono, se vende si compra, no? E c'è scritto, segna qui la lista dei tuoi desideri, no? On all these internet buying sites, there's the possibility to put down your list of desires, right? List your desires. Però proviamo a guardare noi stessi, no? Cioè, quanti desideri abbiamo? È un continuo, desideriamo sempre qualcosa. So, if you just look at our own heart, there's this continuous process of desiring. Ed è interessante osservare il processo del desiderio. Oh, it's interesting to look at this process of desiring. Nel senso che noi desideriamo qualcosa, ok? Faccio un esempio. Vorrei comprarmi una macchina sportiva. Non è che mi interessi, però faccio l'esempio, voglio comprarmi la macchina sportiva. Oh, just as an example, the desire to buy a sports car. C'è tutta questa tensione, no? Allora vado, la guardo, vedo quanto costa, no? Cioè, è tutto l'essere, no? Tutto il nostro aggregato corpo-mente è lì che fa una battaglia, no? Sul desiderio. E poi magari. So there's this incredible amount of tension that arises in this entire aggregate of body and mind, no? About what to buy and how much to spend and look at this model or that model. E quindi c'è tutta una tensione, no? Che va verso questo desiderio. This tension, Ma questa tensione, se andiamo a guardarla sotto, che cos'è? È solo sofferenza. But if we look at this tension, if we just feel the tension itself, then the tension is nothing but a kind of suffering. Poi magari non riesci ad avere i soldi e non puoi comprartela. And then perhaps you find you don't have enough money to buy it. E lì abbiamo altra sofferenza. So then there's perché quel desiderio viene deluso. Suffering of not getting what you want. Non ha coperto la nostra aspettativa. So, when our expectations are not met, Quindi passiamo la nostra vita a desiderare qualcosa, ad avere qualcosa. Voglio diventare ricco. In our lives, to have something, desiring something. Ma non solo per le persone normali, anche per le persone ricche, no? Persone che possono avere qualsiasi cosa, diciamo, e quindi possono appagare i loro desideri. But this desiring mechanism is not just in people who lack something, it's also in those who have all the resources at their disposal. Ma devono stare attenti che quella ricchezza che hanno non gli venga portata via. But then there's this other kind of tension of not wanting to lose what you have. E quindi anche lì c'è tutta questa tensione, no? C'è tutto questo investire sul fatto che devo proteggere tutti i miei beni. And so this other kind of tension of trying to protect what you have, right? E quindi anche lì troviamo sofferenza. And so even that is a kind of nothing other than a kind of suffering. Quindi sono molto importanti Veda e Tana. So it's this link between feeling tone and desiring. Nel senso che attraverso la pratica noi possiamo verificare che tutto questo desiderio ci porta solo sofferenza. So through our practice we can begin to grasp that this entire process of desiring is filled with suffering. E quindi avremo sempre delle sensazioni spiacevoli rispetto a questo. And so there is also in the search for pleasure there's also this generating unpleasant sensations continuously. Quindi attraverso la pratica abbiamo un una sorta di allontanamento rispetto sia al desiderio che alle sensazioni piacevoli e alle sensazioni spiacevoli, fino ad arrivare a quella che è chiamata l'equanimità. So, through the practice, seeing the suffering inherent in the process of desiring, we come to this point of equanimity. Quindi possiamo essere come gli Arahant o come il Buddha, no? Che anche se abbiamo una sensazione dolorosa, eccetera, non vediamo più in termini di avversione oppure di aggrapparsi a qualcosa, ma rimaniamo equanimi. So when there is this equanimity, then it is in a way having the mind of an Arahant, because if unpleasant feelings arise or pleasant feelings arise, the mind is not reacting with its habitual patterns of greed or aversion. Ed è quindi qui che possiamo uscire da questa catena. There's a break in the chain of dependent arising. Quindi poi da Tana passiamo a Upadana, che è l'attaccamento. So, following Tana, desiring is Upadana, which is attachment. Passione, delizie, concentrato sui cinque aggregati di forma, sensazione, percezione, formazione, cosciente, eccetera. So this is also, cinque aggregati? Sì. So this attachment is also attachment to the five senses, the five aggregates themselves. E questo attaccamento può assumere quattro forme. And this attachment can take four forms. L'attaccamento sensuale. So, attachment for sensual pleasures. Attaccamento a visioni erronee. Attachment to wrong views. Attaccamento ai rituali come forma di salvezza. Attachment to rites and rituals as means of salvation. E attaccamento alla dottrina del sé. And attachment to the doctrine of the self. Da Upadana passiamo a Bhava. So from Upadana, from this attachment, we move to Bhava. Bhava significa divenire. And Bhava means becoming. E il divenire in tre di questi livelli. Il livello dei sensi. So becoming on the level of the senses. Il livello della forma. On the level of forms. E il livello dell'assenza di forma. And on the level of the absence of forms. E da qui arriva la nascita jati. And from the becoming comes the birth. Che è l'assunzione fattiva di una identità. And that is taking the form. Di un'identità a questi tre livelli, precedentemente detti. So this is like taking identity on the level of the three previous mentioned. Livello dei sensi, livello della forma e dell'assenza di forma. On the level of absence of form. E da qui parte tutto, Jara, quindi l'invecchiamento, Marana, la morte, Soka, Parideva, Dukkha, Domanassu, Payasa, quindi lamento, disperazione, tristezza, dolore, afflizione. Birth then as the underlying condition for the arising of the entire chain of suffering, which we can see here in Jara, Maranam, Soka, Parideva, Dukkha, Domanas, and that is aging, dying, and then we have to see what the rest are, but there's a whole pain, lamentation, anguish, desperation, etc., etc., the whole chain of suffering. Ok. Bene. Non è facile comprendere la legge dell'originazione dipendente. Io ho fatto una minima cosa, quindi. So, ok. So, it's not so easy to understand or explain this, the law of dependent origination. So, just try to take you through the main links here. E vi auguro di continuare sulla strada della pratica per poter raggiungere la liberazione. So, dalle catene di questo continuo divenire. So, to conclude, to wish that you continue in your practice and that may lead you to liberate yourself from this chain of endless becoming. E praticando con perseveranza. And as the Buddha said in his last words, right? Practicing with perseverance, diligently. Diligentemente. Yeah? Yeah. Okay. Okay. So. Grazie.